con Emanuele, uno dei curatori del Livre, Festival dei Vini e dei Libri Indipendenti a Roma, Esc Atelier dal 19 al 23 dicembre. Emanuele, ben trovato. Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Cominciamo con la presentazione di Livre, che cos'è? Allora, Livre è una fiera, è un momento di festa, ormai è giunto alla sua settima edizione, qui a Esc Atelier autogestivo a San Lorenzo. È una fiera che unisce sia case editrici indipendenti che invece cantine di vini del circuito Critical Wine, quello costruito da Veronelli, il famoso enologo. Questo è un connubio che va avanti con Livre da 7 anni e anche prima di Livre abbiamo avuto un'altra, diciamo, un'altra fiera molto simile, che si chiamava invece Critical Book and Wine. Quindi ormai sono molti anni che questo connubio va avanti e noi pensiamo sia molto importante, tenere unite le case editrici indipendenti che spesso sono in difficoltà, schiacciate da un mercato dell'editoria in cui sono le grandi case editrici a fare da padrone, ad avere una grossa fetta di mercato, più del 70%. Queste occasioni per queste case editrici sono molto importanti, così come sono importanti anche per tutte quelle cantine, quelle piccole aziende agricole, ma anche grandi, che però sono fuori dai circuiti della grande distribuzione e provano, diciamo, a valorizzare il buon vino prodotto secondo certi criteri, secondo alcuni disciplinari, provano a valorizzarlo, diciamo, al di fuori dei grossi circuiti della valorizzazione. Faccio un esempio, ne nomino uno scontato, Ipari. Quindi quel tipo di valorizzazione non interessa, a questo circuito di vignaioli, che poi sono gli stessi che animano altri grandi eventi come Nautica, il Forte Prenestino o la Terra Trema a Leoncavallo di Milano. E il discorso che interessa loro invece è un discorso diverso, centrato appunto su una produzione etica del vino, è una cura particolare che spesso tende alla produzione di vini naturali piuttosto che biologici, anche se non sono condizioni stringenti, diciamo, per stare dentro questo circuito che si attiene a un disciplinare che esula anche dall'elemento specifico della produzione del vino e invece riguarda anche appunto il lavoro, come si produce, in che modo. Ecco, questo connubio a noi è parso da sempre importante valorizzarlo, e quindi questo è Livre, diciamo. Quest'anno quante saranno le case editrici e le aziende di vino ospitate? Allora, poco più di 40 case editrici, tra medio, grandi e piccolissime, e una ventina di cantine da nord a sud. Non copriamo tutte le regioni d'Italia, purtroppo, però ogni anno, diciamo, proviamo ad inserire, nuove cantine anche per sperimentare e dare la possibilità a tutti di esserci. In questi 5 giorni sono previsti anche eventi? Assolutamente sì, diciamo, intorno al core della fiera, che sono appunto i libri e i vini, gira tutta una serie di concerti, performance musicali, dibattiti, degustazione di vini. Si presenteranno alcuni dei libri presenti in fiera, ci saranno eventi musicali per tutte le età. Per esempio, domenica chiuderemo con Capitan Calamaio, che è questo cantante molto apprezzato dai bimbi, quindi ci sarà attenzione anche, per i bimbi, sarà anche allestito uno spazio bimbi apposito. Ok, a questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, assolutamente, si può trovare tutto o su Facebook, cercando la pagina Livre o anche dalla pagina di Esche Scatolive, altrimenti c'è il sito che è Livre Bridi Libri. Però ecco, diciamo, per chi sta sul social consiglio di riferirsi alle pagine Facebook, altrimenti online sul sito. Ricordiamo allora la settima edizione di Livre, Festival dei Vini e dei Libri Indipendenti a Roma, Esc Atelier, dal 19 al 23 dicembre. Un saluto e un ringraziamento a Emanuele, uno dei curatori. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo a Esche, grazie mille.